Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati, mi trovo a Pisa, sono davanti a Palazzo Blu. Questa istituzione ospita in queste settimane una bellissima mostra dedicata a Salvador Dalí, con un taglio molto particolare, cioè l'amore straordinario che questo pittore spagnolo portava per l'arte classica. Sembra una contraddizione, perché noi quando pensiamo a Dalí pensiamo a tutt'altro che l'arte classica, pensiamo appunto al surrealismo, a queste immagini oniriche, fantasiose, strabilianti, e invece questo artista, a partire dal 1935, non solo visitò il nostro paese, ma studiò attentamente i classici italiani. Nel dopoguerra, quando venne buttato fuori letteralmente dal movimento surrealista, perché Salvador Dalí era più surrealista dei surrealisti, a un certo punto non lo sopportarono più, disse una cosa terribile a un certo punto, che Adolf Hitler era un personaggio molto surrealista, quindi bisognava seguirlo e tenerlo sotto d'occhio. Naturalmente i surrealisti veri lo cacciarono fuori dal movimento per queste sue affermazioni. Questo artista, che amava vivere sopra le righe, che amava farsi vedere nelle feste, negli spettacoli, fare delle conferenze assurde, eccetera, in realtà nella vita quotidiana era un lavoratore estremamente diligente ed era un pittore straordinario. E proprio in questa veste ha realizzato, per esempio, una serie di immagini per illustrare l'autobiografia di Cellini e soprattutto la Divina Commedia, che gli venivano chieste dagli editori. Poi, alla fine della vita, nel 1982, realizza una serie di dipinti che ispirati tutti a Michelangelo, cioè una sorta di avvicinamento a questo grande, come se alla fine della sua carriera e alla fine della sua vita, da lì morirà qualche anno dopo, sentisse il bisogno di realizzare appunto questo sogno di avvicinarsi a Michelangelo. Un giornalista gli chiese: da lì ma perché si mette a dipingere tutte queste cose di Michelangelo? E lui rispose con una risposta surrealista: il dottore mi ha detto di riposare, per cui dipingo la Cappella Sistina.